parlare a nome di tutti. Quando dico che il mondo è pieno di farabutti, falsi ideali, sorrisi da giullari, guida un'auto blu e mangiano come dei maiali. Non sono io che sto parlando, è un crimine sonoro che sto divulgando. La voce del popolo si sta alzando, lo sbirro alle spalle lo sta manganellando. Caos più totale, molotov in volo, gente per terra che chiede perdono. Sangue di uomini sull'asfalto, le gocce che cadono sempre dall'alto. Questa la chiamo tirannia, politici corrotti cavalcano la polizia. Via da qua, non c'è via di scampo, ma se lotti come devi forse resti in campo. Sai ciò che vuoi, lo dirai ovunque sei.